Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno, se ci state ascoltando alle 6.45, buon fine serata se ci ascoltate in replica alle 20.45. Vi ricordo la mail unabusoalgiorno@radio24.it. Vi ricordo anche il mio blog sull'home page del Sole 24 Ore Online. Il mio blog si chiama Guardie o Ladri. Allora, oggi parliamo di una cosa molto particolare. Premetto che ciò di cui parliamo è sancito e previsto dal concordato firmato nel 29 tra l'Italia e la Santa Sede. Comunque ciò di cui parleremo viene vissuto in questo momento a Milano, in Lombardia, da alcuni come un vero e proprio abuso. Di cosa parliamo? Parliamo della decisione da parte dell'assessorato all'educazione del Comune di Milano di inserire direttamente in graduatoria, e quindi permettere l'assunzione di 46 educatrici segnalate dalla Curia, che senza concorso e senza graduatoria preventiva andranno ad insegnare nelle 175 scuole dell'infanzia cittadine. Ripeto, lo prevede il concordato stipulato tra il nostro Stato e la Santa Sede. Però di questo bisogna comunque parlarne, perché a Milano in questo momento è, come dire, motivo di viva, vivissima polemica. Noi avevamo sentito e abbiamo chiamato a discutere con noi, sapete, è uso e costume da parte mia farlo, anche l'assessore Moioli. L'assessore Moioli prima ci ha detto di sì, poi ci ha detto di no, poi ha mugugnato, bla bla bla, bli blu blu. Sentiamo che cosa ci aveva detto nel maggio del 2008 l'assessore Moioli, che era già stata nostro ospite. Siccome io non ho dato né idee vaghe e neanche generiche, e mi pare che si stia molto strumentalizzando, questo mi infastidisce molto. Strumentalizzazioni non esistono sicuramente nella mia trasmissione, perché accanto alla collega Zavarit c'è lei che sta dando la sua... Ha parlato con me, io non sono stata né vaga né generica. Se avete bisogno di riempire gli spazi, riempiteli. No, noi abbiamo opinioni a confronto. La sua... Rifiuto della sua giornalista. No, non è una... Che ho cercato io personalmente, con la quale ho parlato io personalmente. No, ma lei è stata molto disponibile, ecco. Ma lei a tutt'oggi non mi sa dire entro quando ci saranno queste classi primavera, i posti e i tempi dove ci sono. Quindi me lo sa dire? Il ministro dell'educazione deve ancora insediare. Ecco, però il rimpallo delle responsabilità agli italiani non piacciono, non siano giornalisti o non siano giornalisti. Mi assessore, il bambino della signora può continuare a farlo il nido. Comunque qui non si tratta di strumentalizzazioni, perché francamente non appartiene allo stile della casa, vale a dire del Sole 24 Ore. Si tratta di avere comprensione. No, la comprensione è un problema, assolutamente. Per 10.000 famiglie da sistemare. Assolutamente la comprensione c'è, tanto che lei è in trasmissione con noi, e da questo punto di vista le dico, assessore, è disponibile a intervenire nuovamente in trasmissione fra qualche mese, quando io sono sicuro lei. Che lei avrà trovato quando la soluzione. Vuole lei. Ed allora avete sentito la voce gracchiante dell'assessore Moioli, che ripeteva quando voglio io, cioè chi vi parla, io lo volevo, ma evidentemente lei non ha accettato il dialogo, è uno strano concetto di democrazia. E allora io chiedo innanzitutto a Tatiana Cazzariga, funzionario della CGIL Funzione Pubblica, alla quale do ovviamente il buongiorno. Buongiorno. Ecco, lei ha avuto le stesse difficoltà che abbiamo avuto noi nell'interloquire con l'assessore Moioli, oppure per voi è andato un po' meglio? Noi attualmente non abbiamo alcun incontro con l'amministrazione su tutta la vicenda delle materne e dei nidi dell'infanzia del Comune di Milano. Per cui questa è una delle tante situazioni di cui vorremmo discutere con il Comune, ma attualmente ancora non abbiamo ricevuto convocazioni. Quindi, insomma, diciamo così che non è facile parlare con questo assessore. No, non è facile parlare con l'assessore Moioli, che ha lo stesso atteggiamento nei confronti comunque delle organizzazioni sindacali. Ma il Comune mezzo gaudio, però, esatto. Ecco, però voglio dire, tranquillizzare i miei radioascoltatori, la notte io dormo lo stesso. Le chiedo, lei dorme, Cazzaniga? Dipende. dipende, non sempre, diciamo. Bene, allora le chiedo questo, però perché tanta polemica per quello che in fin dei conti è un diritto sancito dal concordato? Cioè, perché voi dite va benissimo, la legge lo prevede, però insomma non è il caso di far scavalcare la graduatoria e assumere direttamente presso le scuole materne queste 46 insegnanti segnalate dalla curia? Insomma, le leggi vanno rispettate, Cazzaniga. Sì, le leggi vanno rispettate, noi non abbiamo nessuna difficoltà, come dire, rispetto all'applicazione del concordato. Il problema è che il Comune di Milano dice comunque sempre che non ha soldi per le assunzioni, quindi riteniamo che sia giusto che venga convocato un tavolo sulle politiche occupazionali in cui si discuta di tutte le assunzioni, perché comunque le educatrici che insegneranno, o comunque le insegnanti, perché non sono sempre educatrici, che insegneranno la religione cattolica nelle nostre scuole vengono pagate dal Comune di Milano, quindi ci piacerebbe sapere quanto questo incida sulle politiche occupazionali in genere. Ecco, quindi giustamente voi dite va benissimo, rispettiamo le leggi, però visto che poi il costo grava sul contribuente, cioè sulle nostre tasche, è giusto sapere anche se esiste un piano assunzioni, se esiste un piano anche di riassorbimento dei precari, spero, no? Esattamente, nel senso che con le leggi finanziarie precedenti noi siamo riusciti a stabilizzare un buon numero di educatrici, non sufficiente però a coprire tutti i vuoti d'organico o le sostituzioni che ci sono da fare all'interno delle scuole dell'infanzia, per cui noi riteniamo che sia importante che il Comune dia una risposta non solo verso la religione cattolica, ma anche verso quelle che sono le problematiche che tutti i giorni si vivono nelle scuole. Nelle Bene, nostre scuole. Allora io direi di passare anche ad un altro aspetto che spesso ha dato luogo a veri e propri abusi o comunque situazioni davvero intollerabili, che è l'aspetto degli asili, diciamo così, delle scuole per l'infanzia, insomma delle strutture che accolgono i più piccoli. E quindi, visto che la partita è ancora aperta a Milano e in Lombardia, do il buongiorno e il benvenuto a Laura Frigerio, che è del coordinamento Chiedo Asilo, coordinamento dei genitori Chiedo Asilo. Buongiorno. Allora le chiedo anche a lei quali sono i problemi aperti, problemi attualmente sul tappeto, soprattutto se riuscite a discuterne con l'assessorato e con il comune. Il problema è la carenza di comunicazione, purtroppo riguarda anche le famiglie che sono sempre meno coinvolte ormai dalla scuola, anche gli organi collegiali che sono appena stati rinominati, i nuovi consigli di scuola che non sono stati ancora ratificati dall'amministrazione, non sono stati ancora convocati e non sono stati coinvolti né in questo discorso che riguarda la religione, né in altri più importanti in questo momento sul tappeto per le scuole dell'infanzia. Ecco, quali sono gli altri problemi al di là di questo che abbiamo già approfondito con la Cazzaniga sul tappeto in questo momento? Ma alcuni sono molto collegati, perché il problema delle carenze di organico e delle posizioni precarie che riguardano le educatrici in realtà si ripercuotono molto anche sulle famiglie, ovviamente, perché poi significano bambini spaesati, perché hanno sempre persone di riferimento diverse che non vengono sostituite quando si ammalano, o che appunto essendo precarie vanno in vacanza magari durante l'anno, creano problemi nella continuità della relazione con i bambini. Chiaramente il nostro punto di vista è diverso, ma poi i problemi riguardano anche noi, ovviamente. Vorrei dire due cose. Una cosa, che la Sra. Maioli ha detto che le famiglie stanno richiedendo più religione ed è per questo che ci sono più maestre che adesso vengono convocate tramite questi 46 nomi. In realtà queste più richieste, ad esempio la mailing list di Chiedo Asilo, a cui sono iscritte centinaia di genitori, non appaiono. Addirittura alcuni genitori ci dicono che quando in fase di iscrizione dei figli, per esempio con le modulistiche online, hanno optato per non iscrivergli a religione, andando poi a verificare la modulistica si sono trovati iscritti. Oppure dei bambini esonerati il primo anno che frequentano la scuola materna, al secondo anno, quando inizia il corso, che magari non inizia a settembre, inizia magari un po' dopo, non vengono avvisate le famiglie che sta per iniziare, e quindi se hanno fatto l'anno prima, l'hanno esonerato, non sono informate che devono farlo di nuovo. Ecco. Quindi magari sono figli che hanno cominciato a frequentare la religione anche contro la loro volontà. Ecco, di questi abusi, di queste scorrettezze, di queste denunce che lei sta lanciando attraverso questa trasmissione, a noi sarebbe piaciuto moltissimo, l'ho detto in premessa, parlare con l'assessore Maioli, però evidentemente parlerà soltanto con chi fa domande gradite, e chi conosce questa radio, chi conosce la mia trasmissione, sa che le domande gradite sono le uniche che cerco sempre di evitare. Allora chi chiedo alla Cazzaniga, ma ci troviamo di fronte a che cosa? All'arroganza del potere, ad un patto scellerato che quindi va difeso anche con il silenzio? Perché ci si comporta così, secondo lei, Cazzaniga? Beh, io credo che l'assessore Mojoli abbia dimostrato più di una volta l'arroganza del potere, come la chiama lei. L'ha fatto nella vicenda passata del luglio che abbiamo vissuto l'anno scorso e lo fa attualmente cercando di impostare una riorganizzazione dei servizi che andrà a far scadere la qualità attraverso la cancellazione della compresenza all'interno delle sezioni, senza dare notizia alle organizzazioni sindacali, ma neanche alle famiglie. In questi giorni, peraltro, c'è tutta questa vicenda delle riconferme in cui vengono impostati nuovi moduli orari. Alle domande delle famiglie l'assessore non risponde. Bene. E questo credo che sia gravissimo. Allora, io lancio un appello: chiunque di voi fosse in contatto con l'assessore Mojoli attraverso un tantam, un telefono, un cellulare, una struttura fissa o anche un semplice piccione viaggiatore, li informi che noi siamo disponibili a parlare con lei, se a lei farà piacere. Allora, grazie ai nostri ospiti, torneremo su questo argomento ovviamente perché è caldo non solo a Milano. Grazie regia Peter Bescapé e in studio Laura Fagina. Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.